spesso e spesso è un masso che poi cade giù. Il giro tondo dei tuoi occhi, specchi sporchi di paure, lotte che tu fai con te perché ti piace, piangi solo se ti senti stritolare il petto dall'amore piccolo. Amare è un bel dilemma che ci preme, a noi che siamo spugne degli eventi. Guardiamoci la testa e ogni capello è un errore, sudore ad annaffiare boschi delle stabili paure che si spandono nell'aria come ossigeno nel naso. È ad un passo la risposta che cerchiamo intensamente, e tu mi prendi come il sole che brucia sulla pelle e mi abbronzi il bianco che di me fa manichino. Ti affanni a sussurrarmi che dell'io non c'è mai stato lo stampo. Il tempo passa e ti rileghi coi pensieri più scontati. Il coro urla in controcanto nelle orecchie, solo melodie, le mie e quelle di chi racconta il suo dolore. E tu mi prendi come il sole che brucia sulla pelle e mi abbronzi il bianco che di me fa manichino. Sempre